Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Continuiamo a monitorare dalle nostre agenzie l'evoluzione delle conseguenze del sisma in Emilia. Vediamo adesso, l'abbiamo detto anche nel giornale radio, 17 vittime accertate, centinaia di feriti, naturalmente anche da parte della nostra trasmissione, della nostra redazione. Esprimiamo il cordoglio a questa popolazione piegata da questa terribile circostanza. E dobbiamo però continuare a fare il nostro lavoro e parlare dei temi che commentiamo abitualmente, e oggi ritorniamo su un altro tema che piega un po' le ginocchia di tutti e preoccupa un po' tutti, che è quello della crisi economico-finanziaria, la crisi dei mercati. Anche oggi abbiamo una giornata piuttosto negativa sui mercati finanziari, che vedono che continuano ad accelerare a ribasso, parlo delle borse del vecchio continente. Una crisi economica che non smette di mettere alla prova i cittadini tutti, quelli europei, quelli italiani, e insieme a loro i governi dei paesi dell'Unione, alla ricerca della soluzione migliore per contrastare gli effetti di questa situazione. In particolare le preoccupazioni su Grecia e Spagna, da un lato la possibile uscita dall'euro e dall'altra la crisi delle banche, tengono alta la tensione e il rischio contagio per gli altri paesi periferici, già alle prese con misure di austerità e alla ricerca di soluzioni per la crescita. Negli ultimi giorni si è anche parlato di nuovo, anche questo è un tema ricorrente, delle possibili fughe di capitale, delle garanzie offerte dai sistemi bancari, quelle già esistenti come il nostro fondo interbancario, e quelle che potrebbero essere create per evitare eccessi di panico controproducenti. E insomma, oggi ritorniamo un po' ad esplorare questi temi facendo il punto della situazione, rispondendo alle domande degli ascoltatori e prendendo a spunto anche per i nostri approfondimenti la seduta odierna e quanto ha espresso invece il mercato relativamente all'asta dei titoli di Stato organizzati questa mattina dal Tesoro italiano, che ha messo sul mercato, lo sentivate anche nel giornale radio, BTP a 5-10 anni, oltre 6 miliardi di offerta. Il mercato però ha chiesto 5 miliardi e 740 milioni di titoli. Cosa vuol dire questa richiesta? È stato il Tesoro che ha preferito offrire meno del previsto, proprio perché si era reso conto appunto che il rendimento chiesto dal mercato era più alto del previsto, anche se per la verità l'andamento dello spread qualche avvisaglia ce l'aveva data. Insomma, commenteremo tutto questo con i nostri ospiti di questa mattina. Saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito Vladimir Biasia, spero di dire tutto correttamente, italianissimo ma il cognome un po' complesso, docente alla Facoltà di Economia dell'Università di Udine, partner di WB Advisor, una società di consulenza indipendente. Peraltro, poi vi racconterò anche, so che è uno dei, anche se poco comparso, è comparso di più Noriel Rubini appunto sulle pagine di tutti i giornali, tra coloro che avevano anticipato la crisi, ma so che anche lei qualche cosa l'aveva anticipata negli anni passati rispetto a quello che stiamo passando e che è iniziato nel 2007, Biasia, così? Direi di sì, è dal 2000 che io sostengo che siamo in un grande ciclo di transizioni, l'ho definito il Rambling World, ed è dal 2000 che penso che noi siamo inseriti crisi dopo crisi, bolla dopo bolla, in un contesto che durerà un ventennio circa e che ci porterà verso un mondo diverso, un mondo nuovo, ma che in questo periodo intervalla momenti di positività dei mercati con dei momenti come l'attuale di crisi piuttosto seria. L'aveva detto nel 2000, il ciclo 2001. È ventennale, siamo nel 2012, abbiamo ancora altri 8 anni di sofferenza davanti a noi. Ogni volta che lo dico mi danno la stessa risposta, ovviamente aggiornando il calcolo per il differenziale. In realtà dobbiamo tenere presente che probabilmente siamo molto vicini ai minimi di questa crisi. La parte finale di questo ventennio, secondo la nostra ricerca, dovrebbe completarsi con, come dire, una costruzione di un nuovo ciclo di espansione piuttosto significativo. E in tutto questo però, mentre naturalmente voi guardate ai cicli molto importanti e molto grandi, poi chiaramente invece il piccolo risparmiatore che ci ascolta deve prendere delle decisioni più o meno nell'immediato, e in questo momento davvero un po' non sa che cosa fare, anche perché di nuovo manca l'appello bello la sicurezza garantita, almeno fino a qualche anno fa, dai titoli di Stato. Adesso invece anche con la grande fuga dagli asset in euro che hanno manifestato i grandi fondi di investimento, il piccolo risparmiatore si chiede, ma insomma, se scappano tutti io che cosa devo fare? Stamattina cercheremo nel nostro possibile di dare delle risposte anche a loro. Saluto e ringrazio anche Carlo Aloisio, senior broker della divisione investment banking di Unicredit. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno ascoltatori. Mercati finanziari, di prodotti derivati, prodotti sofisticati, insomma anche lui ci darà una visione interessante su quello che sta accadendo in questo momento. Le posso subito chiedere qual è il suo commento rispetto all'asta dei titoli di Stato di questa mattina? Ce la dovevamo aspettare? Una nuova fiammata dei rendimenti? No, allora ogni giorno purtroppo è una storia economica a sé stante. Bisogna dire che è avvenuta anche in una giornata sfortunata questo epilogo dell'asta, fosse stata ieri o l'altro ieri, anzi ieri anche abbiamo avuto l'asta su altri titoli, sono andate molto molto bene. Cosa è successo? Questa mattina i mercati hanno aperto con questa notizia riportata dal Financial Times circa un rigetto da parte della BCE del piano di recupero spagnolo su Bankia. Questo chiaramente ha portato un'accelerazione degli spread sui paesi periferici, Spagna in primis, che ha creato una certa turbolenza sui mercati. Purtroppo, bisogna dire, la smentita da parte della BCE è arrivata tardiva, è arrivata pochi minuti fa. L'asta dei titoli di Stato italiani nel momento era in corso. Io direi ben ha fatto il Tesoro a ritirare una parte, come già fatto in passato, eventualmente della montare dell'emissione, proprio per preservare questi rendimenti che questa mattina sarebbero stati, tra virgolette, drogati da una situazione di volatilità e nervosismo di mercato legata a fattori esterni che non erano imputabili all'Italia. Ecco, quindi anche per leggere con attenzione le cifre, se il Tesoro ha collocato meno del previsto non è perché il mercato ha chiesto meno del previsto, è il Tesoro che ha deciso a questo punto, dato l'andamento, dato che appunto potrebbe essere il rendimento drogato da queste circostanze, colloco un po' meno, tanto non c'è esigenza. È assolutamente nella facoltà del Tesoro, una forchetta di offerta, e nel momento in cui appunto si vede che i rendimenti non sono in linea con quello che dovrebbe essere il rendimento della curva italiana sullo spread decennale, 5 anni in particolare, che si era molto stabilizzato nell'ultimo periodo, questa forchetta sul decennale tra il 5,60 e il 5,90 diciamo, si era sforato oggi il 6%, proprio per questo fattore implicito che aveva portato a un rialzo forte dello spread sulla Spagna, un rialzo dei rendimenti spagnoli, e quindi direi ha fatto bene dal punto di vista tecnico, è normale, quindi non dobbiamo farci spaventare da questa cosa perché è assolutamente un fattore tecnico che è previsto da parte del Tesoro. Tra l'altro tutto questo succede anche alla vigilia di una nuova operazione di collocamento del BTP Italia che parte lunedì prossimo. Io anticipo ai nostri ascoltatori che noi ne parleremo domani a Salvadanaio. Domani la nostra trasmissione anche venerdì si trasferisce a Trento per seguire il Festival dell'Economia, e da là invece vi anticiperemo i contenuti di questa seconda operazione dopo quella già effettuata nei mesi scorsi con successo da parte del Tesoro italiano, e vedremo appunto se ci sono le medesime caratteristiche, i medesimi anche obiettivi da parte del Tesoro. Per quello che riguarda i temi di stamattina potete come sempre chiamarci all'800240024 oppure scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete andare anche ad animare il dibattito su Facebook, siamo all'indirizzo, al profilo salvadanaio-radio24. Biasia, torno da lei per chiederle un commento anche in questo caso, se vuole, sull'asta di questa mattina, per chiederle in termini più generali, quindi siamo davvero sicuri che non esista un problema Italia e che in questo momento l'esito dell'asta di questa mattina sia il riflesso, lo specchio invece di problemi altrui? La Grecia, perché non ci hanno tranquillizzato questo fatto che andiamo ad elezione a metà giugno e il mercato invece di attendere l'esito elettorale ha immediatamente preferito spostare la sua attenzione in Spagna, di nuovo ritornare a riflettere, a puntare il suo riflettore in Spagna? Perché questo è un mercato estremamente vulnerabile e ha dei piedi di argilla. In realtà le ipotesi della prevalenza di un voto positivo a favore dello schieramento che era pro-euro, diciamo, in Grecia, aveva aperto una finestra reattiva sui mercati, positiva sui mercati, tale da poter quantomeno riequilibrare questo eccesso di venduto presente un po' sui listini, che è stata fortemente mitigata dai timori sulla Spagna. Quindi noi abbiamo da un lato speranze e dall'altro certezze. Speranze che la Grecia possa rivedere un po' il voto precedente e quindi ritornare sui suoi passi ed essere più pro euro e quindi disponibile a seguire le durissime ricette imposte dalla Troica per ristrutturare ristrutturare il proprio debito, la propria situazione, dall'altro invece abbiamo la Spagna che sta invece, come dire, approcciando un vero e proprio problema che parte dalle banche, e lì il problema è dato nella visione del mercato, nella percezione del mercato, è dato dalla forte bolla che si è formata sul mercato immobiliare, e il contenzioso potenziale è estremamente enorme, il mercato è sensibile a questi numeri e quindi tende a prevenire, diciamo, notizie ancor più negative, facendo che cosa? Vendendo gli asset che ha, liquidando posizioni più che vendendo, diciamo. Quindi sono vere e proprie liquidazioni progressive di portafoglio che portano poi a delle situazioni di contagio anche nel nostro mercato, che al momento io ritengo tutto sommato abbastanza, come dire, abbastanza solido, ma non scevro da questo effetto di contagio, che nel caso in cui la Spagna dovesse ulteriormente aggravarsi, necessariamente noi avremo già lo spread, lo misura questo effetto di contagio, e 460 punti base, l'abbiamo scritto recentemente nei nostri report, rappresentano una soglia di estrema attenzione. Intanto, per gli ascoltatori che si lamentano perché non ho ancora dato le prestazioni degli indici europei, li ribadisco: Milano sta perdendo l'1,59%, Parigi -1,35%, Francoforte -1,15%, Londra -1,54%, l'euro sul dollaro a 1,24,37. Fra un minuto devo andare già al primo stop, ma ad Aloisio ho il tempo di fargli questa domanda. L'euro riflette correttamente lo stato dell'Europa in questo momento rispetto al dollaro, o dovremo monitorare una discesa ancora più dirompente della moneta unica europea sul biglietto verde? Sicuramente c'è stata una forte accelerazione speculativa con la rottura di 1,30 fino all'area attuale intorno a 1,25, sul presupposto e sulle possibilità che la Grecia, come nei giorni scorsi si ventilava, possa uscire dall'euro. Peraltro un fattore molto, molto discutibile, perché nel trattato non è previsto, tant'è vero che da parte dell'Europa si continua a smentire questo fattore. Chiaro che di fronte poi a un'elezione, a un'eventuale così volontà greca diversa, creerà sicuramente delle problematiche. In parte ritengo che il mercato lo stia scontando a questi livelli di prezzo. Se ci fosse invece un'uscita della Grecia, sicuramente avremmo una turbolenza più alta. La possibilità invece che dopo le elezioni greche eventualmente un fronte politico più europeista, che quindi consolidi un mantenimento dello status quo nell'euro, potrebbe fare in parte portare a delle ricoperture e riavvicinare parte del terreno perso nelle ultime settimane. Eccoci di nuovo in diretta. Volevo esprimere un saluto a tutti quegli ascoltatori che commentano sempre con un po' di scetticismo anche queste nostre trasmissioni, con le quali cerchiamo di commentare quello che succede sui mercati. Nessuno di noi ha la presunzione della verità in tasca, ci mancherebbe altro, però per quelli che invece sono interessati dobbiamo rispettare anche quelli. Per quello dico un po' a tutti i polemici che ci stanno scrivendo, che come al solito non credono più alle teorie di chi alla mattina e alla sera guarda i grafici e cerca di capire quale tendenze potrebbero avere i mercati. Anche per voi, Aloisio, magari glielo chiedo, è diventato un lavoro piuttosto complicato? Cos'è cambiato rispetto al passato, quando lei si mette davanti a queste piattaforme magiche come quella che io ho davanti a me in questo momento? Le sue giornate come iniziano e come finiscono? Che differenza c'è rispetto a quando faceva magari analisi, non lo so, 5, 6, 7 anni fa, 10 anni fa? Purtroppo è tutto cambiato. Sicuramente l'accelerazione che c'è stata nell'ultimo anno e mezzo, soprattutto, e in parte anche in precedenza col crack Lehman, ha fatto mutare totalmente le certezze e i presupposti di alcuni substrati economici che molti investitori avevano in precedenza. Se da un lato dopo il crack Lehman tutta la filiera dei titoli di Stato non era assolutamente stata toccata, per cui se andiamo a vedere i valori azionari di quel periodo, che sono molto similari tra fine 2008 e inizio 2009 ai valori attuali, non altrettanto è per i rendimenti e per i titoli di Stato dei principali paesi. Non dimentichiamo la Grecia a fine 2009 metteva titoli a 15 anni intorno al 5-5-10% di rendimento con una A+, quindi assolutamente un mondo cambiato da questo punto di vista. Perciò la percezione, con il venir meno di una certezza, che poi è un po' il tema intorno a tutta la questione degli eurobond che si dibatte, che cos'è? Di avere un euro unico cioè la stessa moneta a Francoforte, a Roma come a Parigi, non altrettanto per il titolo di Stato, mentre il presupposto di conversione delle monete uniche doveva essere anche un po' quello che il mercato aveva scontato in quel momento, eleggendo il Bund tedesco, ovvero benchmark di mercato, per cui tutti i vari spread anche con i prodotti derivati quali future erano spariti, il BTP future, il notional a Parigi, quello spagnolo. Adesso piano piano li stanno ricuotando le varie borse, proprio perché c'è un mercato importante sugli spread, però sono venute meno queste certezze, quindi si lavora male, perché si lavora anche giorno per giorno. Come diceva in apertura, la borsa oggi apre bene, a metà giornata è una minima notizia, porta un'inversione di tendenza, poi si attende un dato americano che magari possa rigirare il mercato, quindi stiamo veramente ragionando quasi neanche più giorno per giorno, ma mattino per pomeriggio, quindi diventa assolutamente difficile. Io mi ricordo qualche anno fa, quando facevo i mercati non a Radio 24, nella TV del Sole 24 Ore, che l'appuntamento centrale della giornata era il dato macroeconomico americano alle 14.30. Perfetto. Dopodiché invece si è rivoluzionato tutto, adesso quasi il mercato li trascura quasi completamente, comunque li guarda con molta meno ossessione rispetto al passato. Adesso ci sono altre notizie che governano l'andamento delle sedute, molte volte sono proprio anche le voci dei politici in Europa che dettano la direzione della giornata. Prima di ascoltare le domande degli ascoltatori, perché ce ne sono già alcuni in attesa, volevo, siccome mi ha molto affascinato la questione di Vladimir Biasia, che ha teorizzato, appunto, come ci raccontava prima, il Rambling World, il megaciclo ventennale di transizione che sta governando i mercati globali, e aveva puntualmente previsto il crollo del 2000 e del 2007 dei mercati, le chiedo se però in questo lasso di tempo, Biasia, c'è stato anche qualche fatto che lei proprio, non dico non aveva previsto, ma che comunque l'ha abbastanza sorpresa, tipo il fallimento di Lehman Brothers, il lasciarla fallire con tutte le conseguenze che poi ci sono state nell'autunno del 2008. Sì, devo dire che questi sono episodi straordinari e che ci hanno ovviamente colpiti in maniera profonda, perché determinate certezze si sono sgretolate, perché qui stiamo parlando di colossi bancari, colossi che movimentano, diciamo, cifre strabilianti, per parlare con i nostri ascoltatori. Sì, devo dire questo, ma in realtà nei numeri i prezzi in qualche modo tendevano a scontare determinate emotività negative. Voglio dire, che cosa è cambiato, per rispondere alla domanda precedente, nei mercati rispetto al prima del 2000 e a questo ventennio? È cambiato la percezione del rischio. Prima il rischio non era percepito come tale, e oggi invece il rischio è percepito, forse è sovrastimato in determinate situazioni. Ciò che non è cambiato sono i spiriti animali, il comportamento degli investitori, sia l'uomo della strada che i grandi investitori. Ecco, il comportamento non è assolutamente cambiato. C'è sempre cambiato. Il solito gregge che studia la finanza comportamentale? Ma direi di sì, ed è estremamente importante osservarlo, capirne le evoluzioni, i comportamenti, soprattutto nei momenti, nelle situazioni di stress estremo, sia in termini di panico sia in termini di eccesso di avidità, dove si formano le bolle. Per esempio, se volessimo oggi parlare dell'ultima forse bolla che ci troveremo di fronte, è quella relativa del Bund tedesco. Perfetto. Ecco, meno male che qualcuno lo dice. Concorda anche lei, Aloisio? E quindi come dobbiamo maneggiare questi titoli di Stato che riteniamo adesso la panacea di tutti i mali, la cura principale per i nostri risparmi? Secondo voi quante famiglie italiane stanno dirottando le proprie risorse, che riescono ad accantonare su questi strumenti? Aloisio, è difficile poter naturalmente fare una statistica su questo, però... Ma è difficile, cioè negli anni scorsi ci sono stati alcuni così segnali di disaffezione, chiaramente sono tornati, però diciamo capire per titoli di Stato, se intendiamo i titoli di Stato italiani, c'è sempre da parte dell'investitore proprio un legame con questi per tradizione storica degli investimenti. Credo che oggi andare in maniera irrazionale, isterica, a seguire l'onda, come diceva il collega, di vendere asset per andare ad acquistare Bund o cose del genere, o titoli di Stato a tripla A di paesi che in questo momento stanno rendendo l'1-1,5 su una curva decennale, è assolutamente fuori da ogni logica, tanto vale tenere i soldi sul conto corrente. Mi spiego meglio, perché un'inversione poi di tendenza del mercato, lo stesso sta avvenendo anche negli Stati Uniti, quindi mi riferisco in maniera parallela sia a Germania che a Stati Uniti, c'è in atto una grossa bolla. In realtà questi prezzi sono portati da alcune situazioni di parcheggio di liquidità, ma non dell'investitore signor Rossi o Bianchi, ma di grandi fondi, di grandi istituzioni che a tempo 24 ore, 48 ore o mattino per il pomeriggio parcheggiano una liquidità muovendola. E il rischiare di entrare in questo gioco perverso anche il signor Rossi può essere molto rischioso, perché abbiamo già visto qualche mese fa a una minima inversione di positività di accordi all'interno europei, abbiamo visto un Bund che ha perso 4-5 figure nel giro di due giorni. Quindi a questi livelli di prezzo tornare soltanto ai rendimenti che aveva tra febbraio e marzo il Bund decennale al 2% vuol dire perdere quasi 10 punti ed è un notevole impatto sul portafoglio. Quindi certo, attenzione. Che paragonare i nostri titoli di Stato, i nostri come quelli degli altri paesi dell'Eurozona, anche se su direzioni molto diverse, alle Tiscali del 2000, alle Fastweb del 2000, Biasi, è veramente un esercizio di fantascienza finanziaria molto divertente, in qualche maniera se non deprimente. Guardi, lei ha toccato un tema fantastico. Ecco. Il tema Tiscali Fastweb in quel 2000 è esemplare di come è il comportamento del mondo. Si chiamava Ibiscom, tra l'altro. Ibiscom, esatto. Ecco. Perché la gente che non riuscì a partecipare alla giostra Tiscali, quando vi fu l'IPO di Ibiscom, cercò di assaltare le banche per avere quella ripartizione nel collocamento. Proprio perché pensava di emulare gli stessi risultati e la stessa avidità poi in termini di performance. Cosa accadde? Accadde che Ibiscom fu quotata alla vigilia del crollo del Nasdaq a febbraio. Il Nasdaq crollò esattamente a marzo, iniziò il suo crollo e vi fu una delusione spaventosa, tant'è che chi ha comprato quei titoli poi ebbe dei risultati estremamente pessimi. Ecco, bisogna stare attenti oggi che tra il BTP, o meglio il Bund, non rappresenti la nuova situazione di delusione. Per la verità oggi il Bund è quello strumento di hedging naturale, di copertura naturale da un rischio euro che il mercato percepisce e lo sconta attraverso la differenziale dei rendimenti, il cosiddetto spread. Bene, come diceva Carlo Aloisio, in realtà questo Bund è sostenuto da allocazioni di flussi che possono essere smontati nel giro di pochi minuti. E noi abbiamo calcolato il potenziale segnale di inversione. Noi, il nostro lavoro è quello di individuare i livelli di controllo del rischio di una posizione, no? Perché poi oggi è fondamentale per un analista, per un controllare il rischio e ponderarlo con la potenziale performance. Bene, oggi i primi rischi, i primi segnali, diciamo, visto che siamo in un periodo purtroppo di terremoti, il primo segnale tellurico è dato da una discesa di prezzi al di sotto dei 143-142. Già sotto 143 il mercato sarebbe fortemente venditore. Perché? Perché anticiperebbe segnali di un mercato, di una situazione in evoluzione anche qui, che in qualche modo sarebbero il preludio di notizie che stanno per giungere sul mercato. Ora il risparmiatore non è in grado di proteggersi da questa situazione, assolutamente, ecco. No. Quindi deve avere delle persone di fiducia, delle persone di fiducia che possa guidarlo nelle sue scelte, e qui si apre tutto un discorso sulla consulenza. Guardi, mamma mia, anche qua sarebbe veramente un altro tema da affrontare. Non sono le vostre le figure, come dire, che questa mattina voglio impegnare in una discussione di questo tipo, però magari anche grazie alla vostra professionalità cerchiamo di capire come possiamo indirizzare al meglio i nostri ascoltatori nella protezione del proprio risparmio. Aloisio, no, se mi consente di dire una cosa sui titoli di Stato italiani, mi leggo a quest'ultimo. Ogni investitore col proprio consulente fare una precisa distinzione di una curva di investimento, cioè anche i titoli di Stato, i BTP, vanno da 2 anni a 5 anni, a 10 anni a 30 anni, quindi non prendere di tutta un'erba un fascio, nel senso quale rende di più, quale costa meno, ma valutare anche per ogni investitore qual è il suo potenziale target di mantenimento dell'investimento. Se faccio un fondo pensione in titoli di Stato oggi, vado tranquillo, lo lascerò ai miei figli, posso fare tranquillamente un titolo trentennale, lo pago poco, rende tanto, però il pensare di comprarlo perché mi sta rendendo molto a livello di tasso, per essere magari tra un anno o due costretto a venderlo perché mi saranno cambiate le mie esigenze, perché devo cambiare una casa, assolutamente non va fatto un piano di investimento con la testa su, anche sul punto di vista temporale, non solo del rendimento. Allora, riprendiamo la nostra trasmissione. C'è un ascoltatore che ci scrive: io continuo a comprare titoli italiani perché se dovesse crollare l'Italia o l'euro, cosa me ne faccio con le corone norvegesi? Adesso vedo i miei ospiti che sorridono, vediamo che cosa ne pensano, se vogliono commentare questo ascoltatore, così come un altro che ci scrive. Roberto dalla mia Ancona ci scrive: ho dei BTP scadenze lunghe con buone cedole acquistate ad inizio anno, ma la situazione mi spaventa un po'. E Roberto, condividiamo con lei anche questo moto di preoccupazione che ci coinvolge un po' tutti. Cosa mi consigliate di fare? Ma anche se vendo, dove trovo un porto sicuro? In Bund, in corone o in altre valute? Ma poi se l'euro non si disintegra, come credo, Roberto, speriamo di no. Spero. Questo switch comporta la perdita di diverso capitale? Insomma, una domanda molto articolata. Detto questo, quando adesso anche gli ascoltatori che ci aspettano, però la ricerca del porto sicuro, che è l'obiettivo di quasi tutti coloro che ci ascoltano, dove deve essere indirizzata? Aloisio, lei che ricetta suggerisce? Verrebbe da rispondere che il porto sicuro oggi non esiste più. E purtroppo l'Europa, che ha lasciato andare i titoli governativi della Grecia come sono andati, senza adottare quelle misure Eurobond o da altro di cui si era parlato, ha minato questa certezza. E questo è il grosso problema, perché c'è una speculazione contro l'euro in questo momento. Torniamo un po' a quello che abbiamo detto inizio trasmissione. Nel momento in cui stampi una moneta ed è la stessa banconota in euro che hai ad Atene come a Parigi o a Francoforte, lo stesso i mercati avevano prezzato in quel momento che dovesse essere sui titoli di Stato, cioè piano piano che si andasse a una convergenza negli anni con un unico titolo che rappresentava l'euro. Il dollaro negli Stati Uniti, esiste un dollaro emesso un treasury emesso dalla Federal Reserve. Poi ci possono essere le singole regioni, singoli stati che emettono a livello governativo, però non ci sono nella divisa variazioni di tasso. Quindi noi abbiamo titoli con un'espressione di moneta unica che sono stati lasciati per scelta in quel momento alla gestione dei singoli stati. Si pensava appunto che a questa conversione. Il fatto di aver lasciato andare la Grecia un po' per conto suo, e di fatto è stato un default pilotato, perché non dimentichiamo che parliamo di problema Grecia, ma a marzo anche gli investitori privati che sono stati coinvolti dopo la famosa riunione in Francia in cui la Merkel e Sarkozy decisero di adottare queste misure anche ai privati, chi ha in possesso titoli greci si è visto un haircut superiore al 50%, poi con i prezzi che stanno scontando in questi ultimi giorni siamo al 70-80%, quindi un implicito default c'è già stato. Certo. Questo mina la certezza, per rispondere alla sua questione. Quindi purtroppo non è nel Bund, non è nel Treasury, non è in nessun titolo oggi una garanzia di certezza di rendimento e di prospettiva futura. La solita ricetta della diversificazione forse è quanto ci può proteggere piuttosto che la concentrazione in un'unica asset di tutto il nostro risparmio. Allora, rapidissimi, due ascoltatori, perché sennò poverini li ho invitati a chiamare e poi non rispondiamo. Andiamo a Gianfranco da Pordenone, un ascoltatore molto affezionato. Gianfranco però deve essere veramente telegrafico. Buongiorno. Buongiorno signora Deborah, approfitto della presenza del dottor Biasia per fare una domanda di questo tipo. Si sente sempre più parlare di una possibile partenza dei project bond che, essendo l'anticamera degli euro bond, potrebbero dare vita a una più valida unione fra i vari paesi europei, dove ognuno corre per conto suo, e questo la Merkel va bene. Volevo chiedere appunto cosa ne pensa, visto che questa formula è già diffusa in altri paesi. Grazie. Grazie molto Gianfranco. Sento anche rapidamente Marco da Roma. Marco, buona giornata. Buongiorno, la mia domanda è questa, intanto complimenti. Visto che gli esperti hanno detto che siamo quasi alla fine di un ciclo economico, di un ribasso, vale la pena di accumulare delle posizioni sui vari mercati finanziari, tipo America, mercati emergenti, per poi aspettare con molta, molta pazienza La risalita della china, Marco, no? Esatto, la pazienza, che però con dei piani di accumulo potrebbe dare degli ottimi risultati. Un parere da parte degli esperti. Grazie Marco. Allora Gianfranco, i project bond, la Germania agli euro bond dice assolutamente no. Se però le emissioni di queste obbligazioni europee fossero finalizzate a progetti di crescita nell'eurozona, la Germania lì ci sta. Che cosa sono i project bond? Biasia, appunto, possono essere una buona soluzione adesso per calmare un po' le acque nell'eurozona? I project bond rappresentano, diciamo, il finanziamento di progetti finalizzati e chiaramente rappresentano un tassello delle soluzioni. Tra l'altro mi pare che nel prossimo consiglio del 31 sia prevista l'approvazione di un primo pacchetto, quindi bene in questa, però io credo che qui il problema è molto più ampio, perché parte dalla locazione più corretta del fondo salva stati, il famoso ESFM, eccetera. Perché è da lì che secondo me è il cuore un po' di tutta la questione firewall non firewall, e che passa poi, porta a, diciamo, a diversi rivoli, tra cui quello del project bond. Quindi da questo punto di vista sì, non si può altro che auspicare, diciamo, l'adozione, anche perché poi hanno un effetto leva le garanzie, tali per cui potrebbero effettivamente, e oltretutto sono al di fuori delle misure di bilancio e nella loro contabilizzazione, per cui direi rappresentano senz'altro uno degli elementi. Il problema è sempre la Germania. È sempre lei. Allora, intanto alcuni ascoltatori, prendendo spunto anche dalla domanda dell'ascoltatore di Roma, ci raccontano che stanno continuando ad alimentare i propri PAC azionari internazionali. Naturalmente in questo momento si stanno acquistando delle grandi quote perché i mercati veramente sono scesi molto, quindi da questo punto di vista un'opportunità forse c'è, perché tante aziende sono stra sottovalutate, ma non è detto che possano scendere ancora. Aloisio, la sua idea sul mercato azionario è buona? L'indicazione data dall'ascoltatore: se io comincio adesso, so che devo avere molta pazienza per vedere un recupero, perché il lungo periodo è diventato lunghissimo. Però è vero, rispetto alla domanda posta dall'ascoltatore scinderei un attimo alcuni fattori, perché lui ha fatto un po' di tutto un erbo un fascio parlando di un mercato azionario di diversificazione, parlando di Europa, America o altri mercati. Il vero punto di sofferenza sul mercato azionario è l'Europa, non sono gli Stati Uniti. Se andiamo a guardare gli Stati Uniti, la maggior parte dei listini hanno recuperato molto terreno rispetto alla crisi post Lehman, rispetto a quello che è l'Europa, poi in particolare diciamo l'Europa latina, perché gli stessi paesi del nord Europa bene o male hanno delle performance diverse da quello che è stato per Italia, Spagna o altri listini azionari. Chiaramente torniamo un po' a quello che si diceva tra ottobre e novembre, quando c'era stato l'altro forte ribasso di borsa. A questi livelli molte aziende di piazza affari non rispecchiano assolutamente i fondamentali. Le banche europee oggi capitalizzano neanche 40 miliardi, che è quanto capitalizza BMW in Germania. Stamattina ho trovato anche questo confronto, quindi questo ci dà già l'idea. Questo dice quanta componente speculativa c'è in questo segmento, quanta potenzialità di mercato. Per quello dico anche molta attenzione in ambedue i sensi, anche chi si fa prendere da un pessimismo e sta così chiedendo ai vari consulenti mezzi e strumenti per shortare ancora il mercato a questi livelli, perché abbiamo visto, andiamo a vedere proprio un grafico di quello che hanno fatto anche i principali titoli bancari. Se andiamo a settore su Piazza Affari, nel momento in cui sono entrati gli aiuti della BCE con il piano LTOR, abbiamo visto praticamente rimbalzi tra il 30 e il 40, anche il 50% rispetto a quei valori. Quindi molta attenzione da questo punto di vista. Sicuramente piani d'accumulo a questi livelli di prezzo, con i fondamentali non solo del settore finanziario ma di tanti gioielli industriali italiani, il rischio è proprio che siano appetiti che qualche grosso rider internazionale con pochi soldi venga a comprarsi qualcosa che vale estremamente di più. Ecco, benissimo, abbiamo aperto anche un'altra parentesi. Allora, io non riesco a farvi intervenire ulteriormente purtroppo perché la trasmissione è già chiusa, ma siccome molti ascoltatori ce lo suggeriscono, chiamateli ancora, quei due lì qualcuno mi dice, quindi io lo farò senz'altro. Adesso andiamo all'appuntamento con le pillole curate in collaborazione con l'INPS, che ci aiutano a conoscere le novità e i meccanismi dell'ultima riforma delle pensioni. Oggi parliamo di chi può andare in pensione a 63 anni. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. È vero che coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1 gennaio 1996 possono andare in pensione anche a 63 anni? Sì, è vero. La riforma prevede una particolare forma di pensione anticipata per coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1 gennaio 1996 e ai quali si applica interamente il cosiddetto metodo di calcolo contributivo. In particolare, è stabilito che chi si trovi in questa situazione possa andare in pensione anche a 63 anni, senza attendere l'età pensionabile minima di 66 anni, a condizione che abbia almeno 20 anni di contributi effettivi e che l'importo della sua prestazione non sia inferiore a 2,8 volte la segno sociale INPS e che, dunque, la sua pensione sia adeguata. Per Sergio da Cremona che chiedeva il BTP Italia, lo facciamo domani, Sergio da Trento, questo argomento, per cui grazie a tutti per averci seguito, grazie a Vladimir Biasia e a Carlo Aloisio per essere venuti a trovarci e essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, da Deborah Rosciani, buona giornata.